categoria di servizi possiamo dire VoIP invisibile, perché ci permette di chiamare nel solito modo, senza quasi distinzione. In sostanza il più famoso è Jaja, sappiamo è ormai oltre 1 milione di utenti, però ci sono anche altri provider, altre aziende come MyBlueZebra, che sappiamo c'è cioè dietro il design italiano. Comunque funzionano tutti nello stesso modo: vado sul sito web, scrivo il numero mio di casa, che ho di un telefono che ho a portata di mano, e poi scrivo in uno stesso modulo il numero del destinatario. Dopo aver cliccato su OK, squilla il telefono che ho inserito, il cui numero ho inserito nel modulo. Quindi rispondo e sentirò libero e verrò connesso al destinatario, e quindi poi inizierò a parlare a tariffe più o meno quelle scontate del VoIP. Quindi il computer internet mi serve soltanto nella prima fase in cui scrivo i numeri emittente e destinatario. E perché VoIP? Perché poi la chiamata viene trattata da Jaja tramite internet, anche se non è la mia internet, non è la mia connessione a internet a essere utilizzata per far passare la voce da una parte all'altra, ma è praticamente la rete di Jaja. Sì, diciamo che solo l'ultimo miglio è su rete tradizionale, poi Jaja tratta questa telefonata attraverso le proprie reti. Senti, c'è però un'evoluzione del servizio di Jaja. Sì, Jaja ha lanciato un ulteriore servizio, si aggiunge a quello che abbiamo appena descritto, cioè Jaja Direct, è stato lanciato da pochissimi giorni. In sostanza abolisce anche la prima parte, cioè non ho bisogno nemmeno di internet a casa, nemmeno di un computer per chiamare con Jaja. Come si fa? Bisogna chiamare un numero, che è un numero italiano indicato da Jaja, e poi dire a questo numero quale numero del destinatario io voglio chiamare. Questo servizio tramuterà questo numero del destinatario in un altro numero che io potrò, nazionale, italiano, io potrò chiamare a tariffe locali. Chiaramente conviene per risparmiare sulle tariffe, sulle chiamate internazionali, quindi per esempio chiamo questo numero, posso fare questa procedura anche online in realtà, indico quindi via telefono online già un numero internazionale, poi ne ho di New York, cioè mi dice traduco questo numero in un numero per esempio 06, allora io chiamo il numero 06 che mi ha dato già e la chiamata viene automaticamente indirizzata verso quello di New York. Io pago però una chiamata verso il numero 06 a tariffe già, in sostanza pago due cose, la chiamata verso il numero 06 secondo la mia tariffa telefonica, ma se ho una flat non la pago, e poi pago la chiamata Jaja che è a tariffe VoIP, quindi sostanzialmente risparmio senza avere internet.